Programma radio, radioprogramma. Programma radio, radioprogramma. Amo il papà, amo la mamma, amo la musica e far la mamma. Musica. Per me la musica è uno sguardo, è una carezza, è un sorriso sul suo bel viso. Musica non va spiegata, lei va suonata. Se ti emoziona, lei non perdona, lei ti colpisce in ogni zona. È quel dolore che dà l'amore, che dà la gioia, che dà il dolore, che dà l'amore, che dà il dolore, che dà la gioia, che dà l'amore. Musica, tempo di musica. Se la musica ti affascina, il suo tempo ti trascina. Se invece lei ti è indifferente, non ti combatti, lei non sa niente. Programma radio, radioprogramma. Spiegata, ne va suonata. Se ti emoziona, lei non perdona, lei ti colpisce in ogni zona. Musica, tempo di musica. Se ti emoziona, lei non perdona, lei ti colpisce in ogni zona. Se ti emoziona, lei non perdona, lei ti colpisce in ogni zona. È quel dolore che dà l'amore, che dà la gioia, che dà il dolore, che dà l'amore, che dà il dolore, che dà la gioia, che dà l'amore, perché è il dolore, che dà l'amore, che dà la gioia, che dà il dolore, che dà l'amore, che dà il dolore, che dà la gioia, che dà l'amore. Musica, tempo di musica, musica, tempo di musica. Regolare delle locale, tanto bello per far male, male male, male male. Non restare chiuso nell'armadio, esci fuori e accendi la tua radio. Questa radio Italia Network, e qui c'è Gigi D'Agostino, belle storie musicali in ogni momentino. Se ascolti il programmino, se ascolti il programmino, se le storie musicali in ogni momentino. Guardo il divano, mi sento strano, quasi quasi metto il primo brano. Guardo la mano, mi sento strano, quasi quasi metto il primo brano. Guardo la mano sotto al divano, ora capisco perché mi sento strano. Sigla finita, senza le dita, faccio la mano e metto il primo brano. Christmas with leather. Christmas with Heather. Freaks flock together, making all the people scream. Looking real dull. I'm mixing fitness with leather. Homework with Heather. Freaks flock together and make all the lesbians scream. sono Gigi e non Salvatore. Credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Situazioni che stancamente si ripetono senza tempo, una musica per pochi amici come 3 anni fa. Questo punto non devi lasciare, qui la lotta è più dura, ma tu se le prendi di santa ragione, insisti di più. Sei testardo, questo sicuro, quindi ti puoi salvare ancora. Di tutta la forza che hai, i tuoi fragili nervi. Quando ti alzi e ti senti distrutto, fatti forza e vai incontro al tuo giorno. Non tornare sui tuoi soliti passi, basterebbe un istante. Incidente. essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e bevi. Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Chi va piano va sano e arriva anziano. Mattino ha l'ora in bocca e ha quell'alito che si ritrova, io mi alzo un'altra ora. What they mean to me, madness, Menedetta come Clemens. Menedetta come Menedetta. Menedetta come Menedetta. I'm about to explain it. I bet someone is losing their breath. Hey, Menedetta. Menedetta come Clemens. Quella cosa che succede a quelli che non arrivano più in tempo e non si spiega.